Benissimo, allora iniziamo la nostra serata con un ospite molto gradito che è il dottor Leo Andergass, uno storico dell'arte che abbiamo conosciuto negli anni e apprezzato come studioso, come curatore e autore di numerosi libri che raccontano e testimoniano e documentano la nostra storia dell'arte locale. Ci ha fatto conoscere castelli, monasteri, monumenti, insomma l'Alto Adige è documentato ampiamente dall'opera di Leo Andergassen, che è stato anche direttore del Museo Diocesano e inoltre anche ha lavorato e ha diretto la ripartizione della sovrintendenza dei beni culturali per molti anni e adesso è un ottimo direttore del Castel Tirolo, che insomma è l'emblema anche del nostro territorio. Lo ringrazio tantissimo perché ha aderito a questo invito e qui ringrazio anche Andrea Bonoldi e Paola Bassetti. Andrea Bonoldi è stato anche un ispiratore, un po' una persona che ci collega, ecco, diciamo così, collega la biblioteca con altre istituzioni e siamo contenti di avere l'occasione adesso, non solo questa sera, ma anche prossimamente il 27 febbraio e il 26 marzo, di conoscere ed approfondire appunto l'attività del Castel Tirolo. Iniziamo questa sera appunto col direttore che ci presenta questo libro, riguarda appunto la devozione al potere, l'altare di Castel Tirolo. So che abbiamo anche delle slide, verrà accompagnato da delle slide, delle fotografie. Lascio la parola subito a Leo, che ringrazio ancora e vi invito a tornare poi anche ai prossimi appuntamenti della biblioteca, ricordandovi che le nostre diciamo, conferenze vengono registrate e sono riascoltabili poi sul podcast del nostro sito. Grazie e buona serata a tutti. Tante grazie Valeria. Per Castel Tirolo è veramente una cosa primaria, direi, no? Perché di solito un museo si aspetta il pubblico lì dove sta, ma oggi lo facciamo proprio al contrario, portiamo il museo in biblioteca e il museo portiamo in biblioteca attraverso libri. Stasera un libro, un catalogo che ricorda la mostra dell'ultimo anno, che è una mostra che metteva a fuoco tutto quello che si sa o si crede di sapere sul retablo di Castel Tirolo, sull'altare di Castel Tirolo, che è un oggetto d'arte, un oggetto storico di alto pregio degli anni attorno 1370, un dono, una donazione dei primi Asburgo qua in Tirolo. Ovviamente questo oggetto è un oggetto che richiede uno studio approfondito, questo sanno anche il nostro vicepresidente del comitato scientifico Andrea Bonoldi e la Paola Bassetti Cardini, che abbiamo naturalmente discusso a lungo anche nel nostro comitato come preparare la mostra, come metterla a fuoco, come gestirla, eccetera. Perché per un museo una mostra, direi, è sempre un'occasione di confrontare il pubblico con i propri contenuti, almeno con quei contenuti che dal punto del museo, della concezione del museo, valgano in un certo modo. E questo altare proviene dal castello, proviene da Castel Tirolo. E nei primi dell'Ottocento è passato in proprietà, fra parentesi, a Innsbruck, nelle mani di Johann von Österreich, che aveva allora, beh, non aveva la residenza a Castellambras, ma lì in un primo modo è stato custodito, poi passava al Ferdinandeum di Innsbruck, poi al convento di Wilten, sempre a Innsbruck, per poi rimanere dalla metà del XX secolo nelle collezioni del Ferdinandeum di Innsbruck. Cioè questo ritorno, non dell'altare incompleto, ma delle tavole dell'altare, per noi era veramente, diciamo, un lungo sogno, no? Perché si potrebbe, ho fatto sempre il cenno, sarebbe così come se la Gioconda tornasse a Milano. Si potrebbe cioè paragonarlo con un'azione tale, perché l'altare, almeno visto dal punto della sua nascita, è un documento assai speciale, perché non esistono altri paragoni, diciamo, altri modelli di questo tipo che sono in grado di unire, diciamo, la propaganda del potere con la storia della salvezza. E questo vedremo adesso ad analizzare in questa mia breve conferenza. Qui vediamo lo scrigno, cioè l'altare in forma chiusa, con le portelle chiuse, e naturalmente a prima vista notiamo che naturalmente vediamo le figure assistenziali di una crocifissione, la Madonna e San Giovanni Evangelista, ci sono i committenti, ci sono anche altri santi che fiancheggiano i committenti, ma manca il crocifisso. E questa domanda, anche nella domanda della ricostruzione dell'altare, è stata risolta in tal modo che Vincenz Oberhammer, par exemple, ha detto che naturalmente sulle ante chiuse è stato applicato un crocifisso, ma non ci sono tracce di un crocifisso. Se naturalmente sarebbe stato applicato un crocifisso, in tal modo si vedrebbe alcuni segni di questa affissione, ma non sono vedibili, non sono visibili. Questa è la versione aperta, e notiamo che naturalmente oggi in originale ci manca la scultura centrale, che viene ricostruita, diciamo, pensata come una Madonna, e vedremo anche nel corso questa presentazione che naturalmente il tema mariano, che è logico, è naturalmente il tema esplicato molto vasto su questo lato aperto, in questa variante aperta del retabolo, che naturalmente richiede più o meno anche la figura della Madonna, e vedremo ancora altri aspetti di questa devozione mariana. Dove era collocato il retabolo? Questo altare, questo si sa, qui vediamo da una parte a sinistra la cappella, con la cappella inferiore, con l'altare di San Pancrazio, con le pitture parietali, e dall'altra parte, e questo sarebbe, ecco, l'altare di San Pancrazio nella cappella inferiore, e di sopra ci sono due piani, questa cappella che richiede già, diciamo, la forma della cappella aulica, della cappella dei potenti, due piani, un piano, diciamo, più o meno per l'uso familiare dei conti di Tirolo, e la cappella pubblica, che era aperta anche per il pubblico, per la gente adiacente al castello e per i castellani stessi. Cioè, la cappella è dedicata a San Pancrazio, patrono venerato specialmente dai cavalieri, in questo modo documentato anche per la prima volta nel tardo 200 a Castel Tirolo. La decorazione della cappella, le pitture murali, richiedono in qualche dettaglio anche lo stile giottesco di Bolzano, ma la tecnica della pittura è una tecnica a secco, cioè non è a buon fresco, perciò i pittori non erano, diciamo, oriundi dall'Italia settentrionale, ma erano provenienti più o meno dalla zona del lago di Costanza, dal nord-ovest del Middle Europa. E la cappella di sopra, anche lì c'è naturalmente un altare costruito di pietre. Ci sono due elementi che si riallacciano anche al patrocinio dell'altare di sopra. In questa cappella un giorno erano quattro altari, e questo altare sul livello di sopra era dedicato alla Santa Caterina. Questo lo sappiamo dai fonti, perché c'erano donazioni di lumi nel primo 300 che citano il titolo dell'altare, ma c'è anche questa pittura murale che dietro l'altare che raffigura pure la Santa d'Alessandria. C'è la crocifissione, la Santa d'Alessandria e un santo vescovo senza nome. E c'è anche un elemento iconografico che si riallaccia al volere del conte Enrico, ex re della Boemia, perché raffigura l'adorazione dei magi, e proprio su questo posto in un primo momento erano pensati tre santi, tra uno San Giovanni Battista, che era il patrono della parrocchia di Tirolo, e in un secondo momento si nota questo pentimento di correzione della tematica che riprende poi simbolicamente una scena della vita della salvezza che si lascia interpretare facilmente anche sul volere dei donatori stessi. Ecco, anche lo stemma di Tirolo e lo stemma della Carinzia sono elementi che si rilacciano facilmente con Enrico, conte del Tirolo, ma duca anche della Carinzia. Se entriamo oggi in cappella, troviamo questo falso altare, questa copia che è eseguita nell'anno 2000, perché già allora c'erano delle tentazioni di riricevere l'originale da Innsbruck, ma purtroppo i trattamenti sono non andati a buon fine. Perciò si è deciso di fare una copia collocata ancora tuttora qui sull'altare, sul posto originale. Per questa ricostruzione sono state aggiunte queste guglie, questi triangoli e anche la scultura della Madonna, più o meno inventata nello stile del 300. La domanda è: ma gli Asburgo hanno commissionato o dato in commissione soltanto un retabolo? Perché l'altare principale sarebbe sempre quello di San Pancrazio, quello nella cappella aulica di sotto, cioè quella del popolo. E questa scultura che è conservata nelle collezioni del castello e che proviene sicuramente dalla cappella era, non probabilmente, ma di sicuro, inserito in un altare a scrigno. Cioè, il retro è molto piatto, cioè piatto così che la scultura si inseriva facilmente in uno scrigno, come abbiamo visto il modello sull'altare di Castel Tirolo. Perciò, secondo me, è molto probabile che hanno dato in commissione due retabli, uno per sopra, uno per sotto. L'altare di sotto è dedicato a San Pancrazio. Anche questa scultura si lascia facilmente paragonare con le sculture del Duomo di Santo Stefano a Vienna, eseguiti proprio negli anni 60 del XIV secolo. Cioè una scultura molto preziosa. Abbiamo visto nelle foto che naturalmente questo retabolo non era soltanto una tavola con le rappresentazioni sacre, ma ha anche delle nicchie per la conservazione di reliquie. In questo senso faccio il paragone con un altare simile, ma ben diverso, eseguito per l'altare maggiore dell'abbazia cistercense di Stams, dove osserviamo proprio in questo reparto tanti frammenti reliquiari di diversi santi, cioè la combinazione reliquia, retabolo, reliquia, altare era ben diffuso. Ma vedremo adesso poi anche la differenza, quello che si concretizzava al castello stesso. Riporto di nuovo la visione chiusa delle ante. Ricordo naturalmente i committenti, questi vedremo poi anche in dettaglio, di nuovo quella versione aperta. E qui, se notate, c'è ben, abbiamo aperto anche questi cassetti che erano pensati per la conservazione delle reliquie. Abbiamo un caso fortunato perché abbiamo l'elenco delle reliquie in un documento, in un atto visitale del Vescovo di Coira del 1638. Un elenco lungo di santi, eccetera, di reliquie che un giorno erano inserite in questo altare. E notiamo che la lista presenta anche teste intere di sante del Ager Ursulanus di Colonia, perciò che naturalmente nel Medioevo erano oggetti molto preziosi. Ricordo che anche per l'abbazia di Monte Maria si acquistava reliquie dall'Ager Ursulanus, Climaria, Panafreta, che sono ancora venerati nell'abbazia di Monte Maria. E anche in questo altare sono inserite capita integra, cioè teste intere dal Ager Ursulanus. Perciò era necessario anche, non solamente questo campo di sotto per la conservazione di reliquie dietro, diciamo, questa serratura, questa, ecco, hinter diesem Gitter, questa serratura, ma anche alcuni più alti per conservarne, diciamo, anche reliquiari, cassetti di cuoio, di rame, di eccetera, i quali contenevano le reliquie. È molto interessante che questo, anche il retro è decorato, il retro porta anche iscrizioni, e quello che è interessante, iscrizioni che vanno dal primo del 500, subito dopo il 1500, all'anno 1669. Poi si smette con queste iscrizioni, con questi graffiti. E questo è molto interessante perché la collocazione dell'altare su questo posto lì è documentato proprio a base di questi graffiti fino alla seconda metà del Seicento. Poi il retabolo è stato tolto, messo in un ripostiglio e lì è stato conservato fino ai primi dell'Ottocento. Questo è molto interessante. E ho controllato gli atti visitali e talvolta offrono anche dati interessanti, e lì ho trovato la data 1674 come data del rinnovamento del tetto. E se si rinnova il tetto della cappella, allora si rinnova anche il soffitto. E perciò forse in occasione di questi cambiamenti, di questi restauri, si ha anche tolto questo altare antico e a questo posto è venuto uno in stile barocco, come usuale. Sul retro si vede una porticella da aprire, e per questa piccola finestra si entra in un canale, che era soltanto un canale per la chiusura e l'apertura delle serrature in avanti della predella, cioè diciamo predella di questa zona reliquiare, cioè una cassaforte più o meno di reliquie, no? Perché l'altare non era aperto, perché l'apertura dell'altare veniva non spesso, forse sicuramente in un modo molto raro, no? L'esposizione delle reliquie in giorni speciali, perciò la forma normale era la forma chiusa dell'altare con la presentazione dei donatori e in avanti, questa è la mia teoria, ma secondo me è molto probabile, se il crocifisso non era affisso alle ante stesse, allora era collocato in forma di un crocifisso d'altare davanti al retabolo. Così si riallaccia l'iconografia della crocifissione. I committenti sono dall'altra parte Leopoldo III e da questo lato Alberto III con sua moglie Elisabetta dalla Boemia. Se riesco a tornare, qui vediamo Leopoldo III che bacia l'orlo del manto di Maria o il piede di Maria. Leopoldo III era il fratello più giovane. Ci ricordiamo che Rudolfo IV è morto pochi anni prima. Lui naturalmente era quell'esponente che faceva il contratto con la Margherita di Tirolo nel 1363, ma è morto nel 65. Poi erano i fratelli a dividersi, diciamo, tutta l'eredità e la terra d'Austria. E Leopoldo, come il più giovane, che è quasi un sacrilegio, si mette, diciamo, al lato d'onore, che è sempre lato a destra del centro, e lui bacia l'orlo del manto della Madonna. Lui si mette anche accanto alla Madonna e dietro di lui osserviamo San Pancrazio, che c'ha anche un piccolo coltello sulla cintura che è molto paragonabile con la raffigurazione nella scultura di San Pancrazio. Ah, e Leopoldo III era, la moglie di Leopoldo era Viridis Visconti, una milanese, cioè la moglie. Qui di nuovo l'altro lato. Anche l'altare è contenitore di araldica, di stemmi, di un linguaggio, del linguaggio del potere. Osserviamo l'aquila tirolese, il cosiddetto Bindenschild, cioè lo stemma d'Austria, sotto i piedi di Leopoldo III di nuovo, sotto i piedi di Leopoldo III di nuovo un'aquila tirolese, cioè si può pensare che la composizione dei stemmi è da ricostruire in modo di un chiasmo, cioè come una X. Sopra di Leopoldo lo stemma d'Austria, sotto di lui il Tirolo, sopra Alberto l'Aquila e sotto di lui un piccolo frammento di uno stemma d'Austria. Cioè, lì si cercava di cercare un equilibrio nell'iconografia tra tutti e due. Ecco, la vita della Madonna è composta da diverse scene, ma notiamo subito che tutto il linguaggio della narrazio è un linguaggio politico, perché qui vedremo le scene, ma adesso poi in seguito li vedremo in modo singolare. Il ciclo incomincia con l'Annunciazione di Maria e l'angelo Gabriele porta l'annuncio in forma di un documento sigillato. Sul sigillo osserviamo la testa del Padre Eterno e la scritta, naturalmente, è il testo dell'Annunciazione stessa. E anche la Maria sfoglia nel libro di preghiere e legge il testo che, naturalmente, recita secondo il Vangelista Luca. No, qui si vedono in un modo più dettagliato queste iconografie. La seconda scena è quella della visitazione, ovviamente tutti quelli che sono abituati a vedere, diciamo, le strutture, le architetture del giotismo nell'Italia settentrionale sono rievocati a questo stile che ha influenzato specialmente gli artisti della Boemia. Naturalmente non abbiamo un maestro fisso che è, a cui è attribuibile la pittura, ma l'altare nacque, è stato costruito a Vienna in una delle botteghe che erano a servizio degli Asburgo, cioè che erano influenzati molto, diciamo, dallo stile di corte di Carlo IV a Praga. Poi una scena molto interessante è quella della nascita di Gesù. Osserviamo la Madonna non vestita, nuda, sul letto della nascita. E questo è un fatto assolutamente raro, è l'unico esempio che si conosce. Non c'è paragone. Ovviamente qui dobbiamo chiederci perché. Non è un nuovo senso di realismo, è naturalmente un'immagine teologica che mette a fuoco l'allattamento della Vergine, della Madre Vergine, verso il suo bimbo divino. Perciò questa immagine è da interpretare anche come una Maria Lactans. No? E se cito questa parola, la cosa è molto molto logica, e questa è anche la causa per questa rappresentazione. Ma una cosa in più. Sappiamo dalle liste delle reliquie che si custodiva anche la Lacmarie in questo retabolo. Perciò, forse perché questa portella chiude, diciamo, questa nicchia delle reliquie, e dietro la rappresentazione c'era di sicuro anche la reliquia dell'Lacmarie, no? Che era una reliquia molto diffusa nel Medioevo, ma l'immagine stessa allora fa ragionare la presenza delle reliquie, anche se non si vede la reliquia, si può osservare o venerare qualcosa, l'imago della Maria Lactans. Poi c'è questa immagine, alcuni altri dettagli molto interessanti. Vediamo i pantaloni di San Giuseppe, no? Che ha levato per così che siano poi da utilizzare per vestire il neonato. E c'è un altro indumento che lascia ricordare o il perizoma del crocifisso una stoffa che serviva nel contesto della decapitazione di San Giovanni Battista. Io penso più al perizoma, perché naturalmente questo collegamento tra crocifissione e nascita è diffuso molto nell'iconografia. E queste reliquie sono state presentate ad Aquisgrana ogni 7 anni in occasione della grande Expositio Reliquiarum, che era notamente un punto molto forte nel calendario liturgico-cultuale del Medioevo. E una delle prime raffigurazioni che riprendono queste reliquie reali di Aquisgrana nell'iconografia cristiana. Molto interessante. Si vede che normalmente la concezione iconografica del retablo è veramente pensato a fondo. E per il catalogo il professor Hubert Wolf il professor Wolf ci ha messo a disposizione, diciamo, anche anche Fabian Wolf, uno dei due, ha messo a disposizione una serie di paragoni sull'iconografia, diciamo, del bagno di Gesù, che abbiamo notato anche in scena, o naturalmente la Madonna estesa sul letto, il bagno in preparazione, o altri elementi che sono anche ricordati nella nostra iconografia. Un esemplare è più antico, gli altri sono più recenti in confronto all'altare di Casteltirolo. Vediamo che naturalmente queste scene non sono proprio diffusissime, no? Sono rare. Anche la scena dell'Epifania gioca con questo bacio del piede, che lo interpretiamo come un segno di devozione dei potenti verso il creatore e verso il reggente dell'universo, no? Una scena con tre magi in ginocchia davanti al Cristo nella mangiatoia. La penultima scena ricorda la morte di Maria. Naturalmente, se leggiamo la leggenda di Jacopo di Verrazze, la Leggenda Aurea, lì è descritto in modo molto approfondito come avvennero le vicende. Naturalmente, in occasione della morte, tutti gli apostoli sono stati chiamati dalle diverse parti del mondo a Efeso per partecipare alla morte e per consolare la Madonna moriente. E tra queste figure osserviamo anche una figura incoronata. Non conosco l'iconografia di un apostolo con una corona, del cielo, ma deve essere un'altra figura. E se si controlla la lista dei personaggi presenti in occasione della morte, incontra sempre anche il nome di Dionigi di Parigi, che secondo la leggenda era quella figura che incontrava San Paolo ad Atene e che poi divenne il primo vescovo di Parigi e che subì il martirio di decapitazione. Portò naturalmente la sua testa poi in tomba sua. Naturalmente San Dionigi è il patrono della Grab League, delle tombe reali di Francia. Perciò c'è questo collegamento con l'idea imperiale dei re, eccetera, un elemento molto vicino, diciamo, anche al contesto di Carlo IV in Boemia. Qui alcuni dettagli di questa morte di Maria, ci sono anche gli occhiali rappresentati quasi per la prima volta. Naturalmente, se si conosce l'iconografia italiana, si pensa a Modena, no? E lì naturalmente ci sono anche a Treviso. Ecco, un altro fatto che lascia pensare a questa iconografia imperiale: Cristo porta la corona di Carlo IV, la Madonna porta una cosiddetta Bügelkrone, cioè una corona di imperatrice. Carlo IV si lascia. Un momento. Adesso prima faccio vedere ancora un esempio più tardi della fine del 400, dove anche questo maestro di Großgmain mette sul capo di Cristo e di Padre Eterno una corona mitriata, cioè che ricorda quella di Carlo IV. Non è proprio un elemento singolare nell'iconografia del tardo Medioevo. Ecco, poi su Legimberg, sulle portelle raffigurano la Santa Caterina, la Santa Orsola. Caterina, sappiamo, era la patrona dell'altare stesso, ma c'è anche la Santa Elisabetta e la Santa Margherita. Elisabetta era parentelata con i conti del Tirolo, con Mainardo II, perciò è venerata molto nella cappella aulica di Castel Tirolo. E proprio in occasione della sua festa, che si celebra in mondo germanico il 19 di novembre, il vescovo Sigfrido di Coira ha dato l'ordine di spostare la festa della dedicazione della cappella al 20 di novembre per non poter sovrappassare la festa della Santa. Cioè, in Medioevo, XIV secolo, proprio questi due giorni alla fine di novembre erano giorni di grande festa. Poi troviamo l'immagine della vera icona sulla Ghimberga centrale. E professor Wolf ha notato che lo sguardo di Cristo va verso Alberto III, cioè perché lui che ha raffigurato, diciamo, non sul lato d'onore, ma sull'altro lato. Alcuni dettagli di queste nicchie che contenevano le reliquie. In mezzo vediamo questo canale per aprire i cancelli e questo l'interno delle reliquie nella zona della predella. E Wolf ci ha fatto anche vedere una serie di paragoni, specialmente di retabili nel nord della Germania, per esempio questa dell'abbazia cistercense di Doberan, molto famoso degli anni 30 del 400, o questi che vivevano o vivono tutti anche dall'insieme di rilievi, sculture e pitture, come lo vediamo anche nel nostro retabolo di Castel Tirolo. Anche la combinazione con reliquie, immagini sacri, paragonabile. O anche la figura centrale scolpita, per esempio in questo esempio. O questo retabolo dell'abbazia di Altenberg, a Francoforte, forse riprende anche scene che si ripetono nel nostro retabolo. Mentre normalmente si potrebbe adesso aumentare questi paragoni, ma sono qui per dirci che naturalmente questi concetti si trovano anche altrove, ma diciamo questo aggancio politico è veramente singolare per questo altare del castello. Ecco, questa è un'immagine che volevo presentare prima, perché in questa tavola votiva osserviamo che Carlo IV porta questa corona mitriata davanti alla Madonna. Cioè questo è un esemplare di un artista boema, logicamente, e anche questa tavola che è stata forse costruita in occasione della sepoltura di Rodolfo IV, stilisticamente è molto vicino alle pitture dell'altare, che stilisticamente non sono proprio di altissimo pregio, è più o meno l'iconografia che rende interessante questo retabolo. Ovviamente anche l'elemento della lettera, del documento presentato da Gabriele, osserviamo nell'iconografia qui, in un esemplare a Göttingen nel 1402. E poi naturalmente professor Wolf ci ha fatto anche altri paragoni, per esempio ha messo a fuoco anche questo, è più o meno una casetta eucaristica, un tabernacolo del maestro dell'altare di San Bartolomeo a Colonia, no, che custodisce reliquie, anche l'Eucaristia, e le portelle sono pitturate, sono decorate con pitture. E questo, diciamo, questo cambio d'immagine, no? Perché se apro l'altare c'ha un aspetto, se lo chiude c'ha l'altro aspetto, e questo gioco di, diciamo, anche di far apparire il crocifisso, non apparire, di metterlo a parte, è stato paragonato con questo, no, con questo esemplare di Colonia. L'altra è quella di a Gotland, attorno al 1300, questa nicchia sacramentale eucaristica, e questa è questo maestro di San Bartolomeo, questo trucco di aprire, se si apre, no? Prima si vede l'Annunciazione e poi si vede il crocifisso sulla tavola centrale. O anche questo esempio del tardo medioevo, dell'inizio del Cinquecento, gioca, diciamo, con figure sacre e diversi stati interpretativi, come anche naturalmente un paragone del tardo Seicento nella Sagrada Forma, dove questa pala in questa sacrestia si può togliere e poi si vede in realtà naturalmente dove è collocata questa reliquia eucaristica, diciamo più o meno un gioco di presentazione di reliquie e di cose sacre. Naturalmente la storia del restauro sarebbe una storia lunga. Sappiamo che una prima volta questo scrigno è stato restaurato attorno al 1500, quando il retro del retabolo è stato ridipinto col colore rosso. Poi, in un secondo momento, sono state ridipinte le portelle, cioè la rappresentazione dei donatori, questa si conosce soltanto dagli tardi anni 30, perché sono stati messi a luce in contesto del restauro eseguito a Monaco. E di questo restauro risalgono queste fotografie. Anche il grembiule della Madonna, qui la vediamo vestita, è stata aggiunta la prima volta nel tardo medioevo, poi naturalmente ripresa in età barocca e anche nel primo Ottocento. Cioè, una Madonna nuda non è da immaginarsi. Molto interessante, no? Questo cambiamento delle pitture. Ecco, questa la decorazione originale del retro, della parte posteriore, e alcuni dettagli che documentano anche il cambiamento di questi cancelli. Nel momento questi cancelli vengono datati all'inizio dell'Ottocento, ma dall'altra parte ci sono anche parti decorativi che sono così tardogotici che, secondo me, questi cancelli erano in modo simile forse già nel tardogotico. Come erano forse in forma originale, questo non sappiamo. Forse era anche un cancello in legno. Perché è stato discusso anche nella giornata di studio tenuta a Innsbruck, al castello, se forse queste tavole erano forse tavole piene, ma per le tavole piene mancasse più o meno l'iconografia, perché la vita della Madonna è già raccontata, no? È già completa. Ecco, alcune radiografie, foto con le radiografie del retabolo. Qui naturalmente la sentenza centrale è quella che l'altare è stato costruito a Vienna, ma le parti, cioè i legni, sono poi composti assieme a Castel Tirolo. Cioè era più o meno un concetto di Lego, no? Tutte le parti singole, già ben costruite, perfette, e composte al castello. Perché si vedono dei chiodi che non chiudono bene, cioè a Vienna non sarebbe stato fatto. E se naturalmente si pensa al viaggio, al trasporto, è anche logico che non, con un retabolo completo non si va in giro. No, qui per esempio questo chiodo non fa centro a questa, a questo legno, per esempio. Naturalmente questo che il catalogo non spiega a profondo, perché in autunno dell'anno scorso è stato pubblicato uno studio più profondo sull'analisi tecnico dell'altare, perciò non potevamo dire di più che quello che si può leggere in catalogo. Ma per questo si tengono le conferenze che rivelano i segreti prima proibiti. No, sono tutti immagini radiografiche che lasciano vedere facilmente le parti ferree inserite. Naturalmente le tecniche sono le dorature, eccetera, che anche, naturalmente, anche in questo contesto abbiamo già ripetuto più o meno anche secondo le tecniche che sono saltate fuori dall'analisi, le tecniche sono state ripetute proprio in modo storico, e sì, le faccio poi vedere alla fine. Una cosa molto importante, secondo me, anche che sotto le figure di queste sante si notano da una parte una figura con una chiave, un libro, e una figura con la spada, logicamente Pietro e Paolo. Ma i santi apostoli, cioè in margine, cioè questo non va. Era un pentimento ancora nell'azione della costruzione dell'altare di metterli poi più al centro, anche se oggi queste ghimberghe mancano, non sono più conservate, ma è logico che poi le sante, che forse a base che la Caterina è proprio la santa dell'altare, forse era pensata al centro, è stata spostata, doveva far posto agli apostoli. Interessante. Questo prima non si sapeva, no? Prima di questa indagine, questa analisi. Ecco, e queste foglie rampanti sono realizzate in cuoio pressato, anche questo è interessante, non in legno, ma in cuoio. Ecco i nimbri presentano da 5 a 7 linee circolari concentriche incise a bulino nel metallo, qui si vede benissimo un dettaglio con la testa della Madonna nella scena dell'Annunciazione. Poi naturalmente le vesti dei donatori sono eseguiti con grande decoro. Ecco, il fondo d'oro che presentano viticci a spirale, notano sopra, con fiori e foglie, eseguiti con la tecnica puntinistica. Bellissimi esempi, veramente. Poi ci sono i passamano e gli oggetti d'oro, ad esempio le corone sono ornati con due diverse punzonature a stella. E il particolare del retro delle piccole tavolette che chiudono le nicchie delle reliquie sono ornate, ecco, in questo modo. Poi c'è naturalmente il blu, si vede qui più o meno anche le pennellate della pittura, che è una pittura a tempera e a olio. Si hanno proprio tutti e due gli elementi. Non è proprio una pittura solamente a tempera, c'è anche l'olio. Ecco di nuovo la figura di Alberto III, che è decorato anche con degli iniziali con la A. Cioè in questo senso, naturalmente, lui che sta in ginocchia, l'altro è abbassato, si presenta forse anche più come il fratello maggiore. E sulla veste della Elisabetta c'è la S, forse come per la sponsa o per la Sissi, non so. Ecco, in questo modo sono state riprese le tecniche storiche, la preparazione delle tavole, eccetera. Con l'inno, poi naturalmente col gesso, eccetera, tutti queste azioni che erano necessarie per la preparazione. Poi naturalmente si seguiva con le dorature, anche il zwischgold, o quelle parti poi che mettevano l'argento, le foglie d'argento. Così nasce la tavola e infine si mette la pittura, il colore. Ecco, questa è una tavola anche nel nostro possesso che abbiamo fatto fare una restauratrice di Monaco, con la quale era veramente... osservavamo una buona collaborazione che ci metteva a disposizione, ecco, questi dettagli. Normalmente la mia presentazione finisce qui. Il libro è sempre, diciamo, un mondo nuovo da riconsultare, da rileggere, da riconcentrarsi, diciamo, su questo oggetto, secondo me, di grande pregio, perché è un oggetto che è senza paragone, no? È anche un oggetto politico, anche visto sotto quell'aspetto lì, come si esprime la politica nel tardo Medioevo, no? Tutte queste immagini di incoronazioni, le forme delle corone, veramente, lo stile di corte di Carlo IV, direi che naturalmente questi primi Asburgo erano ben anche predisposti a seguire questi modelli dei potenti dell'epoca, no? Per dimostrarsi se stessi potenti in periferia, no? Perché sappiamo che naturalmente questi umbrit, questi cortei che arrivavano in Tirolo in febbraio, anche fine gennaio del 1370, avevano lo scopo di presentare gli Asburgo. Forse in questo contesto poi si pensava alla donazione di questi altari nella cappella di Tirolo, e il castello stesso è stato frequentato anche da ambedue, da Alberto III e da Leopoldo III. Avevano grande sosta a Bolzano, ma anche a Merano. Perciò anche a Hall, non a Innsbruck, ma a Hall, no? Che veramente, come Bolzano, era la città più famosa, più grande, più ricca del Tirolo storico del 400. Perciò forse si collega la tematica sacra anche con la storia del commercio e delle finanze, e naturalmente anche dei fondi necessari per la ricchezza del Tirolo. Bene, io ci chiuderei in questo punto, in questo momento, ringraziandovi per la presenza, per l'interesse.